Carissimi amici, benvenuti a questo nuovo episodio di OGM. Oltranzisti gastricamente maleducati, ci potrebbe anche essere stata l'opportunità che per qualche secondo non mi potevate sentire, addirittura non mi sentivate più, quindi spero che mi sentite, datemi feedback che mi sentite, perché ho spinto una cosa che non devo spingere. Spingitore di che? Di pulsanti. Ok, perfetto, allora mi sentite e ho capito perché non funziona il microfono di Michele. Bene, bravo, perché praticamente questo microfono che io sto utilizzando in questo momento non ha bisogno del Phantom, mentre quello di Michele sì, e il Phantom era spento, quindi vabbè, abbiamo risolto problemi che ci avrebbero ossessionato per l'intera notte. Benvenuti quindi a tutti, e con me c'è ovviamente i miei compagni di merende, quindi Walter Sbano. Buonasera a tutti e bentrovati, che poi è proprio l'ora della merenda. È proprio l'ora delle merenghe anche, sì. Ma che poi tra l'altro Walter Sbano questa sera la regia, perché oggi noi qui abbiamo smobilitato tutto, abbiamo riassemblato tutto, ma nel dubbio che qualcosa non funzioni, come infatti fino a poco tempo, qualche secondo fa, poteva essere, abbiamo preferito fare una cosa del genere, che tanto quando lo fa Walter viene anche più pulito l'audio, quindi va bene così. E Marco Gualdi. Ciao, sono due macchine sotto che passano, una signora con la mascherina e uno che ha fatto spesa comprando del vino perché è indispensabile. Beh, dopo la finestra di fronte, la finestra di Gualdi. Questo è tutto dal terzo piano, infatti, vi interromperò se ci sono delle novità. Quindi tu stai a fare il camperone praticamente, stai lì a... L'Ummarello. Ho capito. E si unisce a noi nella puntata in cui abbiamo deciso di dire cose a casaccio, anche Alex Raccuglia. Ciao a tutti, ho deciso di fare una diretta al giorno finché non finisce la quarantena o finché non muoio prima. Esatto. Ciao a tutti. Bella Alex. Allora. Bella zio, come si dice da qui da noi. Allora. Come dire i giovani. Oggi racconteremo cose anche magari non proprio gradevoli, però cerchiamo di raccontarle con il tono giusto, cioè nel senso che... Mi fai salutare prima gli amici che si sono uniti a noi, che non sono pochi? Senza offendere, no, hai ragione, hai perfettamente ragione, vai. Come al solito, in ordine inverso e sparso, Ulrich Anders, Carmine Puccio, console... Davide Gatti, che non sappiamo bene se c'è o non c'è, Pier G, Lobby Frontali, che è arrivato proprio sullo sciacquone, e Stefano, prima ho visto anche l'Allabai, e poi insomma tutti i soliti milioni di pavidi che non ammetteranno mai, ma ci stanno ascoltando. Ma ci stanno, sì, come quel ragazzo di Parigi dell'altro giorno che ha detto: ah ciao, io vi ascolto da Parigi, ma non l'ho mai commentato. Bravo. Beh, però sempre piacevole sapere che insomma l'audience è internazionale. Tra l'altro siamo a 2912 followers su Spreaker. Io mi auguro che festeggeremo i 3000 durante la quarantena. Ciao Girasole. È probabile. Stava dicendo qualcosa il dottor Gualdi, sentivo che sotto. No, diceva che forse non c'era niente da dire, fatto bene, insomma, alla fine. No, infatti, se devi dire cose per dirle, state zitto. Cioè, nel senso, per quello ci siamo noi. Pochi interventi, ma buoni, infatti, sì. Bravo, è entrato così a gamba tesa, ha detto ci sono pure io e noi giustamente gli abbiamo risposto con il solito e chi cazzo sei, perché quello è un po' la... E anche il kit lo quando fa vediamo fare, un ascoltatore sì. Nuovo, cioè, ci mettiamo paura, cioè, no, chi è questo? Chi si vio? Perché questo che è... No. bene, allora, salutiamo anche Girasole, quindi, ma mi sa che l'ha già salutata Walter, ma io sapete che sono un po' rintronato oggi. Dicevo, racconteremo cose, insomma, intorno a noi, cercando di raccontare quello che vediamo intorno a noi, cercando, insomma, di non farla troppo pesante, e poi chiaramente penso che Walter si è fatto il catalogo delle cartucciere, cioè nel senso tipo adesso queste le biastimiamo tutti e comunque noi continuiamo a sostenere quello che diciamo sempre nel nostro fantastico gruppo Telegram, che è MDB The Original One. Quindi andate su Telegram, scrivete MDB The Original One e aggregatevi, perché così è il nostro gruppo dove noi mettiamo tutti i meme, le nostre imprecazioni, le nostre insomma opinioni su quello che ci circonda ultimamente. Che stava di? Mi sono scordato. Tutto questo entusiasmo, no, del dire le cose. E vabbè, insomma, vabbè, entrate e partecipate insieme a noi. Quindi partiamo con la cartucciera, o partiamo facendo, diciamo, una panoramica di quello che vediamo noi che abbiamo visto negli ultimi giorni, Walter? Tu che dici? Ma guarda, facciamo un piccolo intro, così magari si capisce anche che vuol dire vi abbasso lo stream. Esatto, esatto, che poi è una minaccia brutta, forte, perché anche noi di Runtime, attenzione ragazzi, se voi non utilizzate la banda in maniera intelligente vi abbassiamo Runtime. Che loro diranno più basso di così? A 128 kilobit. No, peggio, facciamo fare la regia a Gualdi con il cellulare. Ah, bene, bene, bene. È assolutamente divertentissimo, mi piace. È una forte minaccia. C'è gente che è andata al patibolo per molto meno. Esatto. Io penso che... è arrivato anche Zio Mischi. Ciao. No, diciamo che noi con Spreaker siamo proprio al minimo indispensabile, cioè probabilmente 128 kilobit, 16 bit stereo, MP3, quindi noi siamo un compact disc, non di più. È una roba di tipo 15 anni fa, 20 anni fa, insomma. E diciamoci la verità, Spreaker, noi, siccome che hai anche aumentato i prezzi, mortacci tua, no? Dobbiamo aprire il ticket. Dovevamo aprire il ticket, te lo sono scordato. Purtroppo vedi che in questo periodo sta succedendo troppa roba tutta insieme e anche la roba sbagliata, naturalmente. Però sì, comunque, dato che hai aumentato i prezzi, mortacci tua, insomma, almeno, perché non si possono caricare file WAV più di 300 mega, cioè te rendi conto, veramente una cosa... non si può andare oltre 128 kilobit, perché comunque lui te lo ricodifica sempre a 128. Beh, intanto il bitstream di trasmissione è quello che serve, sprecare più spazio, no? Beh, vabbè, un po' più di qualità magari per quelli che fanno trasmissioni musicali tipo Alex, per esempio, magari potrebbe, è vero, che sarebbe, però non te la devono zappare loro dopo, quello dico. Ma no, appunto, infatti è quello un po' il discorso. Perché poi, vabbè, è vero che le trasmissioni che facciamo noi, tipo quelle che fa Alex, hanno anche un senso, perché lui comunque spiega anche determinate cose, no? Sui ritmi, le cose e via dicendo, no? Però è vero pure che anche noi, alla fine, quello che facciamo lo facciamo per far stare in compagnia la gente, no? Che la gente è contenta, che stiamo tutti insieme e se volemo bene, quindi alla fine ci può anche stare. Però, insomma, un po' più di qualità, visto che, cioè, se tu mi aumenti dei 15 euro il servizio, mi devi dare 15 euro in più di qualità. Insomma, non ci sono così. Tanti. A differenza, giusto, di quello che dicono gli utenti che hanno scoperto che in questi giorni, su richiesta delle autorità europee, che poi non è stata una richiesta formale, è stato un caloroso invito, come dico spesso in questi giorni, i vari broadcaster digitali, quindi Netflix, Amazon Prime, lo stesso YouTube, hanno ridotto come dire, il bitstream anche loro, quindi hanno ridotto la qualità dello streaming per, diciamo, rispondere a un'esigenza di lasciare un pochino di banda libera, perché a quanto pare non siamo soltanto noi italiani che non brilliamo per prestazioni delle infrastrutture, ma anche a livello europeo, in Francia, in Germania, eccetera, si comincia ad accusare il problema che tanta gente è tutto il giorno a casa e non sapendo cosa fare guarda film in 4K. E in casa la rete a chi dovrebbe usarla per altri motivi. E secondo me non è manco niente, perché ricordiamoci che fra un po' ci saranno 300 milioni di persone che staranno tutte chiuse dentro casa, tutte contemporaneamente. Sarà un po'. Quindi sentiamo Marco e poi Alex su questa cosa. Porno. L'Italia è piena di televisioni 4K, per cui è giustificata questa cosa. Cioè, tutti quanti a guardare al massimo, cioè, c'è sta televisione 4K, perché no? Giustamente. Comunque, porno. Chiariamo per quelli porno. Che si sono indignati, non stanno riducendo la risoluzione, ma stanno riducendo il campionamento, quindi sostanzialmente il 1080 e altri formati ci saranno ancora. Però sì, diciamo che da un punto di vista di qualità si arriva proprio al minimo sindacale per arrivare, per distribuire quella risoluzione. Cioè, che se no, tu fammi vedere il 4K, aspetta. Poi io vedo le ombre fatte, capito, sgranulate, cioè è una merda dopo. Ah, in quel senso il campionamento. Sì, scusa, oddio, cioè, l'ho detta male, diciamo che più, vabbè, un discorso di bitrate. La quantizzazione. Ah no, è diverso, la questione di bitrate. Allora, sì, te la spiego un po' meglio. Vai, io. Vai. Il fatto che diminuiscono i colori è una cosa che qualunque autore direbbe: ma siete pazzi, vi ammazzo la mamma e la me mamma. La inculo con la sabbia. La mamma, sì. Allora, no, essenzialmente dobbiamo abbassano il data rate, cioè... Vai, tutti. Scusa. Abbassare il data rate essenzialmente significa allocare meno bit, meno banda per le trasmissioni. Questo significa che le immagini saranno un pochettino più sporche, più sgranate, a seconda del tipo, della natura del contenuto. È vero, stavo pensando la stessa cosa, proprio la figa un po' più sgranata, diciamo. La figa sgranata, del tipo che se prima era depilata diventa pelosa, meravigliosa sta roba. Mamma mia, che classe. È bellissimo, bellissimo. Ecco. Il porno. E questo aggiungilo al titolo del gruppo. Titolo sai, del nostro sai, gruppo. Sai cosa fare. Sì. No, in realtà, allora, Netflix, ma anche YouTube, ma soprattutto Netflix, ha per ogni contenuto circa 80 stream diversi già pronti a diversi livelli di qualitativi. Il livello qualitativo massimo sarà quello 4K con la massima disponibilità di banda, cioè senza problemi, e poi ne creano tantissimi, cioè un'ottantina, per andare incontro a qualsiasi tipo di evenienza. Per cui loro probabilmente di full HD ne avranno 5 o 6 di stream, avranno detto: sai che c'è, spegniamo lo stream più elevato, quello un po' meno elevato, la risoluzione rimane, si vedranno immagini un pochettino più sgranate nei momenti di maggiore concitazione, cioè di maggior movimento, e diciamo immagini un pochettino più sporche, diciamo meno incise, meno definite, mettiamola così, cioè la definizione rimane la stessa ma l'incisività l'immagine diminuisce. Te la sto facendo veramente breve, però diciamo che è così. Quanto sia se non conviene abbassare la risoluzione, cioè dici ok, ti levo il 4K ma ti do il 1080, però te lo do insomma, cioè comunque salvo un po' il bitrate, no? Perché comunque lì la differenza magari se nota di meno, no? O perlomeno dice vabbè, però se io ti levo il 4K poi ti devo dare i soldi che esatto, che tu è un fatto contrattuale probabilmente, esatto, perché già tanta sì. gente vuole essere risarcita come se fosse una decisione dei broadcaster fare questa cosa. Okay. Cioè, ma infatti poi la realtà è che è abbastanza equivalente, cioè per certi versi, cioè un'immagine a 4K a basso data rate viene percepita, mettiamola così, per certi versi quasi come un ottimo 1080 ad alto data rate. Loro faranno questa scelta per dire no, il 4K te lo lascio comunque, poi si vede di merda, ma sti grandissimi cazzi. In realtà questa cosa sarà abbastanza trasparente per la maggior parte della gente. Ovvio che se ti metti a guardare un contenuto molto difficile, quale potrebbe essere, ti faccio l'esempio, la puntata che si svolge di notte dell'ultima stagione del Trono di Spade, allora sì, in quel caso sentiresti la differenza. Su altri contenuti là ci furono già alla fonte polemiche, no? Perché fu compresso malissimo anche in TV. Sì, quella è. Ma l'ultima stagione c'era da un cazzo, le scene di notte non c'era niente. Che ci poteva anche non stare, c'era alternativa, però. Secondo me. Perché allora un conto è se tu prepari dei contenuti in HDR, cioè che hanno molti più colori. Un contenuto in HDR ha tipo 1024 tonalità per ogni colore. Un contenuto normale ne ha 8, che in realtà poi diventano 7 per vari motivi che non vi sto a spiegare. Capisci che passare da 1024 a 128 c'è una riduzione abnorme del numero di colori. Soprattutto queste robe le vedi nelle parti molto luminose o nelle parti meno luminose. Se vai a togliere tutti questi colori, ovvio che gli effetti di banding, e questi effetti di banding con avendo pochi colori, avendo poche cose, vengono interpretati nel nostro cervello come una mancanza di definizione e una mancanza di contenuto. Allora, intanto Stefano ci chiede: ma se invece uno il contenuto lo scarica? Qui il discorso è di collegamenti multicast, non di collegamenti unicast. Quindi a scaricare in teoria ti dovrebbero dare un prodotto comunque, diciamo, migliore possibile. Fermo restando che potrebbero fartelo scaricare più lentamente. Stiamo parlando sempre dei servizi tipo Netflix. Stavo sempre a parlare di Prime, Netflix, queste cose. Sì, credo di sì, a parità di servizio. Fermo restando che secondo me non cambia niente. Netflix dipende, il download che tu fai è anche proporzionato al dispositivo con il quale lo stai facendo. Infatti partiamo dal presupposto che i prodotti per il download sono ottimizzati per i dispositivi portatili, quindi comunque già di qualità inferiore. Mediamente un'ora di download su Netflix o su Amazon ad alta qualità non supera, mi pare, 200 mega. È roba di bassa qualità. D'altronde, se lo devo vedere su un cellulare che dei 6 pollici, chiaramente non c'è senso che sia in 8K Ultra Cazzo Imperium. Insomma, penso no. Poi famosissimo Ultra Cazzo Imperium è un gran che cosa. Ultra Cazzo Imperium sostituirà, diciamo, ma in un futuro molto lontano, il Barcam. Chiaramente, insomma, bisogna sempre pensare ai prossimi codec. Bisogna sempre guardare avanti. Guardi invece com'è la situazione lì dal balcone. Aspetta, che torno alla postazione di guardia. La postazione di guardia sotto non c'è nessuno. È incredibile. Sta passando. Però sento una sta macchina. Sta passando De Luca. Passa adesso. È una macchina fantasma. Esatto. Bene, no, io invece vorrei sottolineare questa, perché in tema di ordinanze. C'è questa ordinanza bellissima che ho postato sulla nostra simpatica stream di Spreaker del comune sardo di Mamoiada. Mamoiada! Praticamente Cassassetto. 14 marzo ha dato a Ponte dei chiarimenti alla cittadinanza, per cui le passeggiate, non c'è divieto di passeggiare, eccetera, eccetera, si può fare la spesa, si può raggiungere il tabaccaio e soprattutto questa, portare fuori il cane è possibile per rispettare i propri bisogni, ma hanno precisato, tra parentesi, l'animale deve essere necessariamente in vita. In vita. Vabbè Marco, stiamo a fare propaganda live, dillo, dillo. No, no, bisogna assolutamente dirle queste cose. Io invece pensavo che l'ordinanza diceva che i bisogni dovessero essere del cane, cioè nel senso. No, no, cioè, no, perché tu porti fuori il cane per espletare i bisogni, però non era specificato. Ah, poi dopo ti specifica. Cioè, se i suoi bisogni sono quelli di accoppiarsi, per dire, devi trovare un altro cane e quindi giri finché non trovi una cagna. No, quello non si può fare, per esempio. Allora, Ulrich Anders dice che 8K sarebbero 8 cazzi Imperium. Sì, sì. In effetti. Giustamente, il cazzo Imperium. Il cazzo Imperium è un'unità di misura universale. Ho scritto con la K poi, cazzo Imperium. Attenzione perché entrate marca anche questo adesso. Quindi. Beh, invece De Luca che sta diventando sempre di più eroe nazionale. Noi abbiamo detto presidente del mondo. In effetti, da quando l'abbiamo detto, cominciano a uscire una serie di meme, anche perché lui non perde occasione per blastare, ma non lo fa come faceva Salvini che diceva no, tutti a casa, tutti in galera, tutti morti, tutti fanculo. Lui lo fa con sempre con questo suo piglio, con la sua teatralità, diciamo teatrale, da padre severo, padrone, ma anche padrone, però anche un po' benevolo, cioè nel senso io ti vorrei spiegare che poi mi costringi a darte fuoco, cioè questo. Guarda, lui potrei usare un termine camorrista d'altri tempi. No. Sì, no, ma in non senso, si dice in senso buono, no, mica. No, non si dice queste cose. Dai, si dice. Alziamo le mani e ci no, guarda, quando tu non c'eri abbiamo detto di peggio, abbiamo detto anche dove abita. Ah, ecco, a posto. Vabbè. No, allora io intanto so con De Luca, quindi se prendi loro, io non c'entro niente. De Luca, tu lo sai che per me sei. Insomma, questa cosa del lanciafiamme, diciamo, in altri tempi avrebbe scatenato severe polemiche, diciamo così. E in questi periodi, diciamo, è un po' più concesso, non si sa per quale ragione. Però dice: se voi fate la festa della laurea, io vengo con lanciafiamme. Ma lui di base pone una condizione: se sei un coglione, io ne prendo atto, no? E mi attivo. Se non sei un coglione, tutto a posto. Perché, come dice Gualdi, c'è sempre Darwin, no? Darwin. Alla fine, cioè, infatti, il coglionavirus serve per fare manbassa dei coglioni. E fa pulizia, dici. Per fa pulizia. Purtroppo, muoiono anche persone che. Per colpa sempre dei coglioni, poi sempre colpa, sì, loro. Purtroppo. Beh, noi stiamo sempre aspettando sta botta che arriverà nel sud, perché pare che il 15% di quelli che sono scappati dal nord, cioè, sono partiti con la febbre, pare, mm-hmm. No? Quindi sì. Queste sono notizie un po' da verificare, quindi praticamente mo al sud esploderà l'ira di Dio. Tra l'altro nel Lazio affondi vicino a Latina è tipo un'altra Bologna, zona rossa. Una zona rossa bloccata completamente, recintata anche quella con il muro. Peraltro a Fondi c'è il mercato ittico il secondo più grande d'Europa, se non ricordo male, quindi insomma i problemi sono tanti. Non mangiamo pesce per i prossimi 2 o 3 mesi. No, beh, no, quello no, però no, dal punto di vista dell'ordine degli spostamenti, eccetera, del confinamento, sono tanti i problemi. Comunque, vabbè, allora ragazzi, no, volevo farti un attimo da Alex un secondo, perché vai. È vero che lui, come dice tutti i giorni, ci racconta sempre, giustamente, perché è quello che è, ci racconta il fatto che lui comunque si trova in una zona abbastanza, come posso dire, residenziale, ecco, chiamiamola così, quindi non sì, è che c'è tutto sto scambio. Come definizione. Esatto, da noi si chiamavano dormitori, però zona residenziale, che poi è pure carino, cioè nel senso la zona dove sta Alex, no? Però chiaramente non c'è tutto questo interscambio sociale, insomma, quindi dicevo, c'è il coronavirus, non c'è il coronavirus, diciamo che la differenza è relativa. Però, insomma, diciamo, che percezioni cominci a avere, anche sentendo magari i tuoi amici, le persone che conosci, magari se c'è un po' di interscambio, perché lì comunque in Lombardia la situazione comincia a diventare pesante. Beh, più che comincia è pesante. Sì, effettivamente. Sì. Beh, raccontaci. Non ho capito. Ah, dici come no, se hai sentito qualche amico, qualcuno, da quello che continui a vedere anche del giorno in giorno, se secondo te la situazione. Allora, vai. no, sì, io sono la persona che sta avendo veramente meno visibilità, perché ho contatti con pochissime persone, e i miei genitori hanno detto che nella casa di fronte a loro hanno preso qualcuno, perché infatti sono venuti con l'ambulanza e poi hanno cominciato a disinfestare a modello che hanno bruciato la casa, qualcosa del genere. I numeri sono quelli in proporzione nei piccoli paesi che io conosco, sono quelli in proporzione che poi ci sono nella Lombardia. C'è da dire che qui ancora, forse secondo me, dobbiamo aspettare un'altra settimana per avere il grande botto. Sì. Però ripeto, dato che io veramente non esco di casa da... Mi stanno chiedendo cosa succede, dai. Mia moglie mi dice che sto facendo, che sono una palla. Io non esco in casa da 10 giorni, per cui non lo so, non so niente. Potrebbe essere, il mondo potrebbe essere già finito, e tutto questo è un mio sogno, mettiamola così. Beh, certo, la sensazione un po' di surreale, per quelli che rispettano veramente la cosa, la sensazione di surreale è abbastanza alta, perché con Walter, e qui poi mi aggancio anche a lui, cioè ieri noi abbiamo letto un messaggio, lo riportiamo perché è un po' giusto, no, alla fine sta trasmissione si sarebbe stata comunque, però diciamo ha preso una piega un po' diversa da quando abbiamo letto sta cosa, no? Perché lui la vede cioè da un punto di vista, perché io poi ci ho parlato con Carlo Sant'Agostino, cioè lui non la vede da un punto di vista statistico diverso da come è la realtà nel globale, la vede dal punto di vista personale, nel momento in cui tu sei in un territorio dove sono le persone che stanno morendo di più, no? E quindi alla fine ogni giorno una persona che tu conosci sicuramente non ce la fa, e ti dà questa sensazione di pesantezza, di guerra, no? Perché sì, il giornalista al fronte, cioè questa è una guerra, cioè non dire che si stava a raccontare cazzate, mo da come si sia verificata, come si è scatenato, no, questa è una guerra. Io l'ho detto l'altro giorno, lo voglio dire in maniera particolare, sono stato al cimitero 2 o 3 giorni fa, ragazzi, uno scenario che fa impressione, il fatto che tu ti stai preparando a qualcosa che è veramente uno scenario di guerra, perché stanno praticamente smantellando, stanno buttando giù un'intera collina con le ruspe, stanno mettendo tutti i reticoli, cioè una cosa che a vederlo fa impressione, cioè, a vederlo, cioè, se non lo vedi perché stai dentro casa, ed è meglio che stai dentro casa, perché se esci sta cosa ti incominciano a mettere un po' di angoscia. Già quando hanno fatto vedere la colonna di mezzi militari che spostava feretri da Bergamo, penso che già quello, anche se lo vedi solo al telegiornale, è qualcosa che non avremmo mai pensato di dover vedere, neanche nelle più pessimiste previsioni umane, insomma. Sì, poi io mi so, cioè, ho parlato anche con un mio amico che fa comunque il medico al pronto soccorso lì a Tor Vergata. Lui dice che comunque rispetto a quello che loro si aspettavano la scorsa settimana, diciamo, ancora la situazione, cioè ci sono casi, però abbastanza buona ancora la situazione, e che comunque negli ospedali tutto sommato c'è una certa normalità, perlomeno lì a Tor Vergata. Ecco, nel senso che la gente non ha desertificato gli ospedali, cioè la gente va comunque a fare le visite, a fare i controlli e roba del genere. Cosa penso, Simone? Che noi abbiamo avuto l'opportunità di organizzare dei presidi specifici fatti apposta con un minimo di anticipo, non li abbiamo dovuti realizzare quando c'era già l'emergenza, perché qui fino adesso l'emergenza quantomeno sta tardando e quindi ci dà tempo di organizzarci. Questa è la grande differenza, perché poi Roma è una città da 2 milioni di abitanti solo lei, eh? Sì, beh, considera che in realtà al di là di quello che dice il coglione dell'allenatore dell'Atalanta, diciamo che così in realtà Roma è in pre-presidio già da 4 settimane, cioè nel senso comunque, sì, esatto. Se tu andavi negli ospedali, gli ospedali si erano già settati, sì, c'erano già configurati per questo tipo di problema, quindi in realtà questo fatto che dice ma noi a nord abbiamo reagito bene, al sud sai che casino, sì, però non è così. Senti, cioè nel senso, esatto. A proposito di coglioni, avete raccolto la dichiarazione di Barbara Parombelli? No, non so neanche chi sia, figurati. La moglie di Rutelli, giornalista, sta su Rete 4 e Canale 5 tutto il giorno. Infilata a Canale 5 e Rete 4, infatti. Sostanzialmente ha detto che il virus si è diffuso molto di più al nord, perché al nord sono più operosi, lavorano tanto e quindi vanno in giro. Al sud ci si gratta le palle, la riassumo così, e quindi il virus non si è potuto diffondere. Allora, fino a che tu mi fai un'affermazione del genere e non fai il paragone, cioè nel senso, non è, devi dire, non è necessariamente al nord sono più operosi e al sud non fanno un cazzo, ma che al nord ci sia, come posso dire, un maggiore interscambio, una maggiore velocità nel movimento, perché comunque la gente è sempre in azione, è sempre in movimento, ci può stare, cioè non è un discorso assurdo, è che però tu non devi fare il paragone con un'altra realtà e di no perché l'altro non fanno un cazzo, perché... Non è così necessariamente scritto da qualche parte, Alex. Tu che sei magari chiamato in causa da questo. Allora, io credo questa cosa qui, nel senso, cioè, i primi contatti con i vari pazienti zero che arrivavano dall'estero, dalla Cina, li abbiamo avuti più al nord, effettivamente, perché la maggior parte delle industrie che hanno delocalizzato in Cina stanno qui al nord. Io penso a tutto il Veneto fondamentalmente ha delocalizzato molto della produzione, per cui diciamo i primi focolai sono arrivati lì, e poi man mano si stanno allargando. Il fatto di avere una sorta di cuscinetto di qualche settimana di divario e avere introdotto queste misure ha fatto sì che probabilmente l'esplosione sarà meno forte al sud rispetto al nord. Certo, i treni che sono partiti quella notte non avranno aiutato, però secondo me sono comunque non tantissimissimi rispetto a invece al contagio che c'è persona per persona, perché poi alla fine i primi contagi grossi si sono verificati e soprattutto i focolai sono esplosi tra le persone anziane che non andavano in realtà al lavoro ma avevano contatti vicini con la gente, vai al bar a bere il caffè, vai al bar a giocare a carte, cioè queste, i primi focolai di Milano sono venuti in un circolo anziani di Bresso, per dirti. Come la bomba, no? Cioè lì veramente è scoppiata la bomba e poi il resto del paese in un modo o nell'altro, poi con più o meno buchi e roba, ci ha avuto tempo di prepararsi, perché dicevo, cazzo, lì è scoppiata la bomba, cioè quindi qui se siamo messi un attimo tutti con le mani così a prepararsi per l'onda d'urto, perché quindi un minimo magari di preparazione, forse un minimo, alcune zone si salveranno per questo, però io spero, perché per noi è una speranza, raga, perché qui, cioè, per quello che abbiamo visto, io pure l'altro giorno ho fatto sta foto con la macchina dei vigili urbani parcheggiata di fronte a un bar che avrebbe dovuto essere chiuso, con assembramento di persone di fuori, e nessuno diceva niente a nessuno, e sta cosa per me non si può, una cosa del genere, cioè non si può, perché poi ai sindaci che dicono ah però il governo ci deve dare più potere, ma tu intanto fallo quello che devi fare, cioè nel senso, sì, gente che non sa gestire l'ordinario, dagli pure il potere straordinario, guarda che succede. Senza fare nomi, esatto. C'è quella sindaca che porta l'acqua con le orecchie, un a caso. Vabbè. Guardi, tu che pensi? Sopravviverai a questa apocalisse? Non lo so, ma non possiamo sapere che cosa succederà. Magari fra un po' arrivano i tuoi di appartamento, ci svaligiano tutto, che ne sai, che cosa può succedere. Secondo me comunque fra un po', se non la smettete di fare i coglioni, andare in giro, continuare ad aumentare i numeri degli infetti e quindi continuare ad allungare questa quarantena, secondo me fra un po' la gente esce le catane, ragazzi, esce le sciabole, cominciare ad ammazzarsi in casa, cioè io, perché adesso tu senti quelli che fanno le canzoncine che ho sentito poco fa in lontananza, grazie a Dio, prendendo i pezzi dell'inno d'Italia e mettendolo su una canzone tipo quasi quelle di Chiesa che cantano i Boy Scout, e ho rabbrividito, cioè io penso alla gente che non c'è un cazzo da fare adesso. Fratelli d'Italia, esatto, una cosa del genere. Osanna, però cantato con l'inno di Mame, bello, esatto, bella, una cosa del genere. Che ho detto, porco demonio, cioè, ma mannaggia ragazzi, intanto, ma mentre in chat 10 giorni la gente esce le catane, cioè non fateli sciocchini. No, dicevo, mentre in chat si stanno domandando cosa mai sarebbe successo se l'epidemia fosse partita dal sud anziché il nord, meglio non pensarci. Io volevo un attimino, come dire, riportare un pochino il tono, perché ci siamo, come dire, infervorati sulla serietà. Però devi sempre considerare che il sud è meno popoloso, cioè nel senso, sì, secondo me forse c'era più tempo. Oggi, Simone, il sud in alcune zone sta vivendo con una certa, come dire, superficialità. Ci sono ancora degli assembramenti, dei comportamenti un po' più superficiali rispetto al centro-nord, e sono documentati da persone del posto. Sì, però, sì. Voglio andare un attimo all'estero. Non so se voi seguite questo canale. Aspetta, prima ando all'estero, un secondo solo, poi te mando all'estero. Mentana, giustamente Shuran dice, ieri a Mentana davanti alle banche ne passano più di 50 persone in fila. Allora, il problema lo sapete qual è, mo, al di là delle ordinanze. Il problema è che la gente reagisce alla stessa maniera indipendentemente dal tipo di emergenza. Cioè, non è che ti dice, oh, c'è la guerra, andiamo tutti a piè i sordi. C'è il virus, non dobbiamo stare appiccicati, andiamo tutti a piè i sordi. Cioè, no, non... E questo è il problema, è che reagire allo stesso modo per un pericolo che è sostanzialmente diverso significa potenzialmente metterti in pericolo, no? Perché poi è quello un po' il discorso, e lo vediamo anche noi, perché comunque vedete la gente, boh, da noi un po' si è regolarizzato, però fateci caso, ogni volta che parla Conte e c'è un leggero inasprimento, diciamo, delle condizioni, tutti a fare la gente esce da casa e vanno a comprare roba. Ma che cioè, vabbè, è una visione un po' anacronistica di queste condizioni, eh. Magari anche un istinto naturale, per carità, io non voglio dire. Vai all'estero che volevo all'estero... raccontarvi questa indicazione. Io, come in parte anche Simone Pizzi, giro molti canali YouTube, e tra quelli che seguo c'è Vivi Giappone, che è il canale di un ragazzo di Roma che si è trasferito prima per studio e poi, diciamo, in via definitiva per lavoro a Sendai. Ora dovete sapere che a Sendai in questi giorni c'è la fiaccola olimpica, che è stata esposta in una teca alla stazione di Sendai e non all'aperto. Lui ha fatto vedere oggi in un video che praticamente ci sono migliaia di persone, migliaia di giapponesi in fila per vedere la fiaccola olimpica. E la cosa strana è che, malgrado loro siano un popolo che la mascherina se la mettono per cultura, proprio in questo momento quelli che ce l'avevano erano pochi. Quindi proprio il senso del pericolo di questa epidemia lì... Ma erano quelli malati, però, dai. Cioè, dici, li hanno portati a fare l'ultima gita? Sì. Non lo so. Beh, a me ha fatto impressione, diciamo, che tutti i paesi che potrebbero imparare dalle nostre stronzate, niente. Sì, io ho visto sia lui che quell'altro, Tommaso in Giappone, Tommaso, sì. Mi hanno parlato un po' di questa questione. In realtà, secondo me, io sono abbastanza convinto che in alcuni paesi non hanno la percezione di quello che è stato il problema e che è il problema. Perché allora, sarebbe successo 10 anni fa, ma neanche tanto, se noi in Italia avessimo notato che questa esplosione d'epidemia fosse nata in Albania, avremmo detto: ma è normale, è l'Albania, sono tutti zozzoni, e allora è normale. Beh, no? Quello che abbiamo detto con i cinesi, cioè che... tanto, vabbè, però già con i cinesi, cioè, quelli mangiano i topi, se mangiano i pipistrelli, i topi, cani, vabbè, però col cinese, secondo me l'italiano oggi c'ha un po' più un atteggiamento quasi tipo questi ce se comprano a noi, eppure, perché l'italiano c'ha il rapporto di sudditanza con chissà che, indipendentemente da quello che si magna, è più potente di lui, no? Perché i cinesi sono più potenti di noi. Oggi vengono, ce se comprano e poi dopo ce buttano pure dentro al secchio, perché è quello. Ma ci hanno anche dato, però, più di uno schiaffo morale. Hanno risolto il problema, o perlomeno sembra l'abbiano risolto in un tempo ragionevole, e hanno cominciato a dare una mano a noi con tutti i problemi che hanno avuto loro. Esatto. Che poi, tra l'altro, loro anche politicamente ci avrebbero avuto pure da ridì, volendo, no? Perché noi comunque all'inizio gli abbiamo chiuso tutto, gli abbiamo fatto tutte decisioni unilaterali, chi ve se incula, cinesi de merda, poi alla fine... Infatti quello è lo schiaffo morale, no? La soddisfazione di far vedere che sono meglio di noi. Hanno vinto, esatto, punti. E invece sto problema adesso si sta creando, perché poi è una ondata, cioè è esploso da noi e si è propagato. Quindi, quando probabilmente, io me l'auguro mo, indipendentemente dal risultato, quando poi comunque si sarà propagato da noi, in teoria non dico che avremo risolto il problema, ma sicuramente saremo un pezzo avanti, no? Quindi alla fine, dopo, si invertiranno un po' tutti questi rapporti, capito? Perché secondo me molte volte noi abbiamo criticato, io non sono un nazionalista, lo sapete, no? Però secondo me noi abbiamo criticato il nostro paese per come ha reagito in determinate situazioni, ma io penso, in generale lo ha dimostrato anche un po' la storia, che in determinate situazioni di vera emergenza comunque noi abbiamo saputo reagire dal punto di vista organizzativo anche in una determinata maniera. Il problema è sempre sociale, cioè nel senso che noi siamo un popolo di gente che tu mi dici di stare dentro casa, allora io esco, capito? Cioè, questo un po' è il vero problema, secondo me, che i cinesi non hanno. Ma è noi siamo sempre quel popolo che prima critica il governo perché ci prende per il culo, e poi quando è il momento di essere seri prende per il culo il governo, di fatto, no? Cioè, nel senso, cerca di essere l'eccezione alla regola, di non applicare le disposizioni che ci vengono date, e soprattutto finché una cosa viene data sotto forma di consiglio viene ignorata perché la legge non mi obbliga. Allora, per quello che dice Pier G in chat, anch'io lo seguo Briller. Lo seguo da un sacco di tempo perché, vabbè, mi faceva anche ride, no? Quando lui cercava di spiegare l'italiano agli italiani, cioè lui da americano, no? E devo dire che conosce la lingua italiana sicuramente meglio di quanto lo conoscono tantissimi italiani medi, perché comunque la nostra comunque è una lingua abbastanza articolata e complessa. Però a me, quando lui ha, diciamo, commentato le due conferenze di Trump, alla fine lo ha fatto da americano e non c'è un cazzo da fare. Loro, anche se lui è stato critico, è stato critico fino a un certo punto, perché comunque loro ce l'hanno quella cultura, cioè nel senso comunque è comunque il presidente, comunque lo sbaglio americano è sempre più giusto del giusto straniero. Esatto. Allora, no, perché qui mi è piaciuto il passaggio, è giusto questa cosa, cioè, ma è giusto che, ma che cazzo stai a dire? Poi dopo fa vedere la conferenza dopo, cioè, ah, ragazzi, qui mi sa che l'emergenza è seria, ah, e c'erano 27 persone davanti a lui tutti assembrati, no? Dice, ma come? Ah, l'emergenza è seria, state te e state in 27 tutti assembrati. Anche quello è marketing, no? Cioè è un modo di dire, sì l'emergenza è seria, ma io sono il presidente degli Stati Uniti, circondatemi tutti, tanto c'ho l'anticorpi contro coglioni, un po' suona questo, no? Cioè nel senso di tasta sensazione, sì l'invincibilità, so, l'invulnerabilità di Superman, so Alex, sì, che sì, c'ha più rapporto con gli americani. America, allora, faccia Tarzan. Allora, fino a qualche giorno fa il loro approccio era un approccio come avevamo noi nei confronti della Cina, anzi forse di quelle che avremmo potuto essere l'Albania. Sì, poverini, mi spiace di per voi. Sì, perché ho ricevuto un paio di, cioè, ripeto, ho contattato due clienti mi hanno contattato, gli ho risposto in ritardo perché effettivamente sono stato incasinato e gli ho detto scusate, c'ero in Italia, sono un po' stata in situazione, ah sì, mi spiace. Altri clienti, ho un cliente a me che è praticamente universale, però ho a che fare essenzialmente con gente che lavora dalla Svezia e il loro approccio è stato molto pragmatico, come quello degli aziendalisti, nel senso sappiamo che siete in difficoltà, speriamo che state tutti bene, dopo i 10 secondi di convenevoli, ok, adesso parliamo di lavoro, eccetera eccetera eccetera. L'approccio è che dall'esterno ci vedono come una nazione in ginocchio, che secondo me ancora non lo siamo, anzi come ha detto Simone noi stiamo reagendo veramente bene, perché credo che comunque il fatto che di avere un sacco di, l'italiano medio essenzialmente cerca di essere furbo, però non è merda secondo me, per cui quando vede che effettivamente fuori c'è l'apocalisse dice vabbè, cioè, tiriamoci sulle maniche e vedi le storie di questi infermieri che sono turni allucinanti ma vanno avanti e dice no, che cazzo, cioè, sta roba qui va fatta. Sì, poi c'è il medico che fa finta di si mette malattia, ma è un caso più raro effettivamente, cioè io vedo che le istituzioni adesso stanno facendo cose che non mi sarei aspettato, soprattutto non mi sarei aspettato da un governo fatto in questo modo, come riparo, grazie al cielo c'è questo governo qui, perché se ci fosse stato un Salvini non so cosa sarebbe successo, per fortuna c'è andata di culo per certi versi, questa è la mia opinione. Sì. Fatto la secessione dall'Europa, però secessione, oppure secessioniamoci dal sud, ma quello no, però sicuramente avrebbe fatto casino, questo sicuramente, ragazzi, sì. Perché comunque avrebbe fatto azioni basate sul discorso strettamente propagandistico. Secondo me in questo caso il governo è Conte, cioè io ho questi io sapete quello che pensavo di Conte, no? Però poi bisogna un attimo pure, cioè, averci comunque la coscienza tra di noi e sapete che quando comunque un individuo in qualche maniera esce da quell'impasse dove dico ok, mi sa che fino a mo non ci ho capito un cazzo, questi mi hanno tutti presi per culo, adesso mo vi faccio vedere io come si fa, perché comunque c'è la sensazione di un governo che ha comunque sotto controllo la cosa senza star lì a tramburellare ogni 3 minuti, che è secondo me questa è la cosa migliore, perché fosse stato Salvini avremmo avuto comunicazioni a reti unificati ogni 10 per 2. Cioè, lui con la felpa della Croce Rossa, soprattutto. Ma guarda, Salvini l'ha fatta una cosa del genere proprio in queste ore. Si è fatto una foto sui social in cui aveva un maglioncino a colore blu che poteva quasi sembrare un camice ospedaliero, gli auricolari bianchi del cellulare e la mascherina. Vabbè, dopo essere stato pizzicato che andava a fare passeggiate con la ragazza, che io non so chi sia, ma ragazzi, c'ha una bella faccia di merda. È la figlia di Dennis Verdini, non è una caso. No, vabbè, così, no, per una dire che, insomma, io sono la fidanzata di. Che, mamma mia, il maglio! Cioè, vedete il maglio perforante, sì, quello di Tom Break, no? Maglio sganassatore, sganassatore, cioè. Ma lo sganassatore in quel caso, secondo me, sì, però secondo me il maglio perforante, ragazzi, se avete capito, insomma, sì, vabbè, con faccia sull'asfalto. Walter, vabbè, andiamo oltre. No, volevo dire, Antonio, intanto sono usciti i dati della Lombardia di oggi e comunque sono ancora pesanti, non ho il paragone diretto, forse qualcosina meno di ieri, ma comunque allarmanti, perché sono 3251 nuovi contagi e 546 decessi, quindi insomma devono tenere duro, ragazzi, dovete tenere duro ancora un po', sicuramente. Sì, si pensava che era questo il picco, ma dicono poi alla fine che sarà la prossima settimana. Mo adesso io non lo so bene, non sono in grado di poterlo dire, però se anche fosse che la prossima settimana è il picco, è comunque uno scavalcare una collina, cioè superare la boa, diciamo così, insomma è quasi un punto di ritorno per certi versi, perché comunque abbiamo visto che sistemicamente funziona così, cioè nel senso il modello di picco e riduzione alla fine comunque c'ha un modello matematico, e io spero, perché regà, cioè, ma non è solo per il fatto di stare dentro casa, perché comunque, cioè, cazzo, noi ogni giorno stiamo a fare la conta dei morti. Io penso che veramente una cosa del genere la vedi veramente uno scenario di guerra. E la sensazione, comunque, poi alla fine è quella. Soltanto che stavolta c'hai un nemico invisibile. Cioè, dici, oh, vai per strada, dai una mano a qualcuno. Qui non puoi manco dare una mano a nessuno. Cioè, vabbè, io sarei il primo che muore. Cioè, puoi evitare contatto. Una vignetta molto bella americana in cui c'è Superman seduto sulla poltrona di casa davanti alla TV e la moglie anziana che gli dice: beh, non esci a fare qualcosa? E lui dice: lo sto facendo. Nel senso che l'unico modo per dare una mano adesso è stare zitti, buoni e fermi. È quello, sì, sì, è quello. Per questo motivo, Simone, se mi permetti, io volevo introdurre un altro aspetto su cui io mi sono molto infervorato sui social questa settimana, che è la famosa questione di avercela o prendersela coi runner. Coi runner, coi corridori. Con i corridori. Sì, il concetto è: il runner medio dice, per me correre è un'esigenza fisiologica, non farlo mi crea un malessere tangibile, quasi come un fumatore in crisi d'astinenza, per fare un paragone spicciolo. Se corro non faccio niente di male, non mi rompete i coglioni se corro, perché non è vietato. Io faccio questo ragionamento e mi fa girare molto i coglioni, perché secondo me questo ragionamento è un indice di egoismo, nel senso che capisco il loro malessere, però ci sono tante persone che hanno malessere a essere lontani dalla loro routine in altri modi. Si richiede un sacrificio a tutti, e a maggior ragione un runner che, al di là del fatto che durante la corsa potrà anche non incontrare nessuno a un metro di distanza, però magari suda, lascia delle tracce, torna a casa sudato e non sa effettivamente se sta bene, se sta male, diciamo, potenzialmente potrebbe essere, anche se minimamente, comunque un vettore di contagio. Però aggiungo un'altra cosa: ma se facendo attività fisica cadi e ti fai male e vai ad intasare un pronto soccorso che ha bisogno di avere il focus su un'altra emergenza, non stai creando comunque un danno? Se un paramedico deve venire a recuperare a te a Villa Borghese che ti sei slogato la caviglia invece che un malato a casa, non è un problema sanitario? Per la caviglia slogata non si va al pronto soccorso, però. Vabbè, dai. Allora, no, io sono d'accordo sul principio totale di quello che dici. È vero che secondo me te fai male e intasi il pronto soccorso, diciamo che è, diciamo, un caso limite, no? Nel senso, secondo me il problema è proprio più pratico, più oggettivo. Cioè, io sto correndo, c'è un'altra persona che, dato che lo faccio io, lo fa anche lei, mi supera respirando. Che maledetto, no, mi hai superato. Ma anche solo respirando, cioè, ragazzi, sì, noi non abbiamo capito, cioè, non abbiamo capito che questo, cioè, è un virus che si trasmette tranquillamente con respiro, cioè, anche lui mi supera a 20 centimetri da me, potenzialmente mette in pericolo me, o io metto in pericolo lui. Quindi, cioè, comunque, il discorso è: ok, non ce la fate, fate Virginetto intorno a, al, al coso, al balconcino vostro, oppure comprate Tapir Run o qualsiasi cosa, fate le corse su, sulle scale di casa, non lo so, cioè inventate qualcosa, ma se c'è un'emergenza, c'è un'emergenza che per prescinde tutti dalle tue esigenze, esatto, cioè non, non sei tu. Cioè pure Alex vorrebbe andare in bicicletta. Io so che Alex, infatti, vorrebbe... fino all'altro giorno ci sono andato, eh. Alex, non mi dire questo. No, vabbè, l'aveva già detto, l'aveva già detto. Facevo il mio giro, mi facevo il mio giro, avevo sui guanti, andavo a farmi il mio giro, dove non incontravo anima viva, assolutamente. L'unico momento di contatto con qualsiasi persona era l'apertura del cancello del, del, del cortile, cui dovevo passare. E altrimenti zero. E secondo me, nel senso, secondo me incontravo più gente quando portavo in giro a fare il cane a far la cacca, certo, per dirvi. Poi se, se anche questo deve essere tolto, va bene, l'ho fatto, l'ho fatto effettivamente per la mia sanità mentale, che adesso ne risente probabilmente, però oh, vabbè, pace. Ma d'altra parte, se no non sarebbe un sacrificio, no? Vabbè, ma non, cioè, allora aspetta, però non è questo il concetto, non è deve essere per forza. No, non perché debba essere, però è chiaro tutti, che cioè, se... uno usa la parola sacrificio perché è conscio del fatto che ti toglie, ti limita una libertà, non è una cosa, come dire, super, detta con superficialità, secondo me. Sì, che poi io per esempio e Michela siamo fortunati perché avendo comunque il cancelletto qui dove parcheggiamo la macchina, cioè abbiamo virtualmente una un'entrata indipendente da tutto quanto il condominio e quindi noi non non interagiamo neanche con oggetti o cose, no, però poi è ovvio, cioè nel senso è un discorso, però anche lì, cioè nel senso, se tu ci pensi, noi, cioè, noi siamo fortunati perché nel palazzo nostro c'è una persona che è molto diciamo attenta a questi particolari, ecco, se lo vogliamo mettere così, quindi cioè noi abbiamo l'odore di disinfettante praticamente 24 ore su 24, cioè le, ma non perché spruzza, ma perché le scale e tutto lo stabile vengono praticamente igienizzate da, da sta persona quasi costantemente, che da una parte in condizioni normali uno dice vabbè, dattela una curata, oggi ti dico grazie, cioè nel senso, perché comunque alla fine comunque sta a fare un qualcosa che no, che ma è tra l'altro, cioè, i primi giorni del, in cui si parlava di Covid, si diceva che il primo contagiato italiano faceva, diciamo, spaventare perché l'aveva preso in una forma molto grave, tra l'altro poi in questi giorni che sta uscendo dall'ospedale. Faceva meraviglia il fatto che lui era uno sportivo semiagonista e quindi come mai una persona di meno di 40 anni in piena forma fisica e sportivo aveva preso il virus in quella forma così grave? E qualcuno, qualche, ovviamente qualche medico, spiegò che, e questo secondo me può valere come riferimento, durante la fase, diciamo, di sforzo aerobico ci sono dei momenti in cui il corpo reagisce riducendo le difese immunitarie, per cui nel post affaticamento agonistico, quindi nel post corsa in questo caso, sei più vulnerabile a una potenziale aggressione del virus. Quindi attenzione, che correre non è detto che faccia solo bene, ecco. Sì, no, è abbastanza chiaro il modo in cui il coronavirus scateni il Covid-19, cioè comunque tutta la fase patologica, perché comunque, come dicevamo anche ieri con Carlo Santagostino, in realtà l'80% delle persone potenzialmente sono asintomatiche, questo non significa che non c'hanno il virus o che comunque non sono dei vettori del virus in sé. Però le persone che poi in realtà diventano sintomatiche, cioè questo è un virus che nell'arco dei 6 ore ti mette a tappeto il sistema respiratorio, cioè volendo, se nelle condizioni più gravi, nell'arco dei 6 ore ti mette, proprio per questa azione iperimmunizzante del corpo che cerca di trovare qual è il soldato che è capace di ammazzare il virus, in realtà poi non lo trova e quindi scatena contro tutto. E anche se tu guarisci, comunque i danni dal punto di vista fisiologico per quanto riguarda l'apparato polmonare rimarranno sempre, cioè comunque. E non è che, perché noi all'inizio, ma anche noi, anche io, anche a me stesso, ci siamo raccontati l'influenza è un par di coglioni, perché comunque alla fine sì, dal punto di vista dell'aggressività è inferiore a tantissimi altri virus, o probabilmente sono anche influenze più aggressive del però il problema è che noi oggi ancora non ci abbiamo da metterci, anzi, ecco, sono notizie di ieri, oggi e l'altro ieri, comunque, ecco, hanno trovato l'anticorpo, cioè nel senso, comunque hanno trovato il motore che scatena il virus e come bloccarlo. Quindi in teoria noi paradossalmente siamo più vicini a questo vaccino che a tanti vaccini che magari ci abbiamo messo più tempo, ma non perché non ci vuole tempo per fare sto vaccino, ma perché abbiamo accelerato tutte le procedure. Quindi questo ci avrà anche pure questo ci avrà delle conseguenze, no? Perché comunque metti che fra 2 mesi arriva il vaccino o comunque un farmaco che è efficace, comunque avrà saltato il 50% 3, 4, 5, 6 passaggi, sì. E il 60% di tutta la sperimentazione. È inevitabile che sia così, raga, perché no, l'emergenza avrà saltata del tutto, perché le sperimentazioni durano anni. È l'uso compassionevole che si può applicare in certi casi. Sì, sì, perché l'emergenza lo richiede, esatto. Chiaro. Vabbè, vai, ragazzi. Alex, scusa, Don. No, prendiamo Alex, guarda. Dici tu, poi andiamo. No, no, ho detto quello che dovevo dire, cioè nel senso che le sperimentazioni durano anni in questo caso, salti tutta la parte di sperimentazione sugli animali, la sperimentazione su gruppi di pazienti, la sperimentazione, cioè nel senso, ovvio che se il mondo sta per finire dice oh proviamo, cioè. Tanto peggio di così. Però, sì, certo, perché anche perché anche se tu la contieni l'infezione, se la malattia sta in giro, sta in giro, cioè nel senso, sì, sì, ma infatti che non cioè, troviamo noi vaiolo l'abbiamo eliminato, rimarrà in giro. Esatto, noi il vaiolo l'abbiamo contenuto, ma poi dopo, quando fino a che c'è stato il vaccino, il vaiolo poteva risbucava qua a cazzo, esatto, di cane, di qua e di là, insomma. Quindi e il vaiolo, insomma, era quello che io, infatti, c'ho il segno del vaiolo. Sono uno, penso, quelli della mia generazione sono gli ultimi che hanno fatto il vaccino del vaiolo, perché dicono il virus non esiste più, che è una stronzata, no? Cioè, i virus mutano e potenzialmente rimuteranno ancora, quindi non è che il vaiolo non esiste più, non esiste più in quella forma lì, ma quel virus ha preso. E non è proprio così, comunque. No, vabbè, comunque. Ragazzi, io volevo un attimo riportare uno dei pochi dei virus eradicati, per cui cioè, volevo un attimo riportare i toni un po' più sul faceto, me lo consentite? Ah sì, anche se no fra un po' ce la chiamo. Quello cazzarà. Allora, avevo una notizia proprio per Marco. In realtà questa è del 17, mi sembra, quindi non è proprio di oggi, però fa divertire lo stesso. Tra vari piccoli criminali crescono, che vanno in giro e si beccano le denunce, questo è uno dei più belli. Attenzione, è da Repubblica Torino. Dalla Lombardia al Piemonte sfidando i divieti. Devo fare la spesa a Tortona, se no perdo i punti della tessera. Beh, lo sai che su Repubblica, al TG0, quello che fanno la sera, no? Fanno il decalogo di tutti. Allora, sapete che ci sono quasi 8.000-10.000 denunce al giorno, no? Perché comunque veramente questo è indicativo, no? Però mi fa ridere perché e sei, e loro ci mettono una canzone sotto e sei un perla. Esatto. Ricordate, no? La canzone del, no. E quindi dovremmo fare una cosa del genere. Perché ricordarlo? Tu dici perché ci vengono i virus. Ma c'è già, lo sai che in merito a tutte queste multe, c'è già chi si sta lamentando, tra virgolette, quello che deve fare, come dire, il comunista antisistema, che praticamente così lo Stato ci guadagnerà dei soldi, ci vede già il complotto dietro. Ma è colpa dello Stato se è pieno di imbecilli in giro? Beh, guarda, è uscito proprio recentemente, penso 2 o 3 giorni fa, il video dei Neurodrom, che per noi è una sorta di padre spirituale, cioè come la divinità. Anche fratello, perché probabilmente siamo più vecchi di lui, però. Sì, sì, chi lo sa, lo sai, lo sono sempre domandato, non lo sapremo mai, perché non si farà mai sgamare. Comunque, il bello è che lui ovviamente ha preso tutti le varie stronzate, le varie categorie tipologiche che lui ha sempre un po' preso per culo sulla questione del coronavirus, e ovviamente i peggio sono sempre i vaccinisti, cioè nel senso, al di là di quelli gli antivaccinisti, no, cioè al di là di quelli che dicono, cioè, Gesù Cristo ci sta punendo, il genere umano deve morire, cioè, che poi tu c'hai una cattiveria dentro, che pure se fosse così, cioè, ma Gesù Cristo a te non ti salva, perché dovrebbe salvare a te perché tu pensi che sia Gesù Cristo, che sei il più infame di tutti? Beh, insomma, come chi vota Lega, no? Che pensa che certe cose poi non avrebbero effetto su di lui, perché lui è un sostenitore, mentre punirà tutti, il capitano punirà tutti gli altri, ma non lui, perché lo ha votato, invece sarà il primo a essere punito. E questo lo pensavano tanti fascisti anche, insomma, durante la presa del potere, no? Poi sì, dopo alla fine la cucchiaiata d'olio del ricino prima o poi te tocca. Esatto, che non fa mai male a nessuno, diceva qualcuno, insomma. Non io, chiaramente, perché insomma io la faccio già tranquillamente di mio. Però quelli del quelli della partita a calcetto, no, cioè, capito? Io posso capire che hai fatto una cazzata, siete usciti in due a fare la spesa, cioè, a me se non concesso sia pure gente in buona fede che non ha ben capito, no? Cioè, tu stai organizzando la partita di calcetto, sei un coglione, cioè, sei un coglione, cioè, ma non è la denuncia 5.000 euro, ma cioè, ma mettili dentro uno sgabuzzino per due mesi, chiusi a chiave, cioè, perché non si può la partita di calcetto durante la pandemia, cioè, sei un coglione, non lo so, io non mi dispiace, raga, non ce la faccio, non sono in grado di tollerarla sta cosa. Simone, io credo che ci sono tante, come dire, tanti contesti in cui ci sono persone il cui la cui consapevolezza è ancora bassa, perché purtroppo il livello di alfabetizzazione generale di conseguenza è basso e non stanno capendo la situazione, sono ancora convinti, no vabbè, ma è un virus che ammazza gli anziani, io sono giovane, non mi succederà niente. Sì, no, perché poi vedi che ci sono anche già infetti dei 25, 29 anni, anche i più giovani. Il problema è che probabilmente a loro, se sono fortunati e sono in salute, probabilmente non gli succede niente. Il problema è quello che portano dentro casa, capisci? Sempre là il discorso. E, comunque, piccola nota di speranza, prima anche Carmine ce lo linkava in chat. I primi dati che arrivano dalla Puglia relativi alle infezioni di ritorno, quindi ai contagi dovuti agli studenti che sono, e a tutti fuori sede in generale che sono tornati a casa da Milano, sembra non aver al momento fatto danni sconquassanti. Hanno portato dei contagi, però secondo gli esperti al momento i numeri sono ancora tra virgolette contenuti. Sperando che poi non si siano andati a fare le cene e le partite di calcetto, insomma, perché è sempre quello un po'. Perché Emiliano non è De Luca, diciamocelo. No, gli piacerebbe, ma non lo è. Ma secondo voi, io sta domanda l'ho già fatta nella diretta precedente, la faccio anche a Simone Pizzi, sì, perché non c'era. Simone, ci sei? Sì, no, intanto stavamo provando il microfono. Sì, ho notato. Che funziona. Volevo chiedere anche a Michela se vuole. Ce lo vedete un futuro da politico nazionale per De Luca dopo tutto questo casino? E se sì, in che ruolo? Allora, Michela non ti ha sentito, ma mo adesso gli apro le cuffie. Prova un po' a sentire se senti. Prova. Micheluccia, ci senti? Sei? Però noi non sentiamo bene lei. No, mo c'è. Mi sentite? Ecco la vaglia, ok. Mo c'è. Vai. Io non la sento. No, è lontana. Se entra dal tuo microfono. Eccola. Mi sentite? Eccola, sì. Grande. Eccoci. Grande. Allora, no, Walter ci ha chiesto: ce lo vedete dopo tutto questo casino una posizione nella politica nazionale di De Luca? No. Dai, parti tu. E se sì, quale? Perché no? Io lo voto subito. Abbiamo giocato, abbiamo scherzato. Presidente. Presidente del mondo. No. Vabbè, seriamente no. Ma se no, è uno seria, così, cioè. Guarda che lui c'ha una comunque c'è una cultura dietro a quell'uomo, c'è una cultura anche politica. Stiamo sempre parlando di estrema destra. Ma chi? De Luca è del PD. Ma è del PD. No. È un ex comunista. De Luca è del PD. Sì, lo so che non sembra, però è del PD. No, non mi sembrava. Infatti sarò confuso. Ma con lui sembrava certe volte. Perché c'ha sempre con De Magistris, no. Tipo. Vabbè, ma De Magistris discorso, c'ha però una lista sua, non è del PD. Invece vai a dire quanto gli sta simpatico Salvini, insomma. Infatti. No. Lui ha sempre dimostrato che, anzi, la maggior parte degli attacchi li faceva proprio contro il 5 Stelle e contro ovviamente la Lega, insomma. Guarda, nella diretta che abbiamo fatto con Lobby l'altro giorno, abbiamo fatto sentire i pensieri di profonda amicizia e di stima per Di Maio e per Salvini, quindi non ci stanno dubbi. No, a livello internazionale probabilmente penso che ci vedrei più Conte che De Luca. Ma Conte anche in realtà è un avvocato, non è un politico, a quello che sta affrontando sicuramente. Vabbè, pure Di Maio non è un politico, insomma. Ma Di Maio non è. Beh, il problema è che Conte c'ha un'educazione istituzionale sentiamo uno del nord che magari è un po' più avulso, nel senso che poi alla fine comunque questo rapporto con De Luca, insomma, magari non ce l'ha mai avuto, insomma. Alex, che peccato. Tu ne pensi di De Luca? No, non ce l'ho mai avuto, ma devo dire che mi sembra uno di quelli che il problema è che mi sembra che dica delle cose sensate, ma urlando, dice: ma siete rincoglioni di tutti quanti? Ed è questo il problema, che c'è talmente un tale livello di rincoglionimento. Adesso non so cosa succederà da qui ai prossimi mesi, però ripeto, fino all'altro ieri c'era gente che andava a ballare al Papete e diceva: ah, figata, il prossimo presidente del consiglio, forza capitano. Sì, siamo proprio dei rincoglioniti di bambini di 8-9 anni che ha bisogno di della maestra che li punisce a volte, oppure del bambino più grosso che fa il gradasso. Una persona senziente, l'abbiamo visto più di una volta, cioè, non sa neanche come comunicare, e l'approccio mi sembra quello, nel senso, come dire, mi piace la tagliente ironia, però il problema è che l'ironia necessita di un livello di QI che è superiore a quello dell'ameba media, per cui sì, a me piacerebbe tantissimo, bisogna capire se poi può prendere sulla popolazione. Beh sì, poi bisogna vedere se funziona, certo, è chiaro, perché comunque è comunque un prototipo tra virgolette di uomo forte che alla gente piace, eh? Allora, il problema è che se io devo scegliere comunque l'uomo forte di sinistra, lo preferisco all'uomo forte di destra. Allora, a sto punto, se devo fare un mio ragionamento, cioè, il problema è che andremo verso anche, secondo me, anche la politica. Beh, raga, ma la democrazia ha fallito, cioè sì. La democrazia capitalista con questo virus ha dimostrato i suoi limiti, quindi... No, ma dal punto di vista proprio internazionale ci sarà dei risvolti, secondo me, anche a livello politico, che questo è un momento di grande riflessione proprio storica, sì. Ragazzi, cioè, nel senso, c'è questo sistema così lo vedo nella faccia di Salvini, la riflessione. No, ma lascia perdere Salvini, mica Salvini sconvolto. Salvini nei prossimi mesi piano piano sparisce, cioè, di fronte all'emergenza e alla capacità politica di gestire un problema, la gente come Salvini sparisce, cioè sparirà. Diciamo che forse già la Meloni si è suicidata da sola, quindi... Forse la pandemia, poi vi lascio perché sennò ho preso tutto lo spazio, forse la pandemia ci ha portato, forse porterà una consapevolezza, spero, negli italiani tutti, o comunque nella popolazione tutta, perché comunque che c'è bisogno di competenza, e è una cosa che non andava più di moda, però forse torneremo a avere dei politici competenti, speriamo in Dio. Bene, salutiamo Michela che grazie, domani pomeriggio fa una trasmissione musicale. Faccio giusto? Una trasmissione musicale dalle ore 17 Mono Special Edition e Tool? Gli amici di una per vita Gem? No, questa volta non ci saranno i Tool, però io continuerò per tutte le domeniche, molti anni a venire, della quarantena, insomma, quindi arriveranno anche i Tool. Dai. E arriverà un po' tutto, insomma. Bene, grazie, Michela. Vi racconterò meglio poi domani se mi ascolterete. Basta. Addio. Ciao. Addio. Basta, ciao. Adesso devo trovare il modo di infilarmi anche in quella trasmissione. Ma lei, no, la prima puntata ha detto la vuole fare da sola, dalla seconda puntata, dalle altre puntate in poi, siccome che questa cosa non lo la so, vuole... ma io infatti voglio entrare di straforo senza che lei sia d'accordo. Sa perché tu devi, è l'achievement tutte le trasmissioni. Assolutamente, devo platinare questa quarantena. Platinare la time, 40 quarantena. Esatto. Beh, ci può stare. Cioè, avete altre notizie? No, scusate, Walter, ragazzi, Walter. Io ero un attimino, come dire, concentrato su una che cosa che devo leggere per forza. Il cantante dei Tool, che poi ha lavorato anche nei Perfect Circle, eccetera, che noi conosciamo solo come Keenan, tutto lì nasce perché volevo dire ad Alex: spacciati per Keenan, così ti prende per il cantante dei Tool e te fa entrare in qualunque chat. È nato a Ravenna, okay, ragazzi. Ma che è davvero? Sì. Maynard è nato a Ravenna. Serve su Keenan, in chiostro di Keenan. Dice: dai, sono Maynard Keenan, te fa entrare, vai tranquillo. Però cioè, questa cosa mi ha fatto pensare. Nato tra Ravenna e Monterodondo abbiamo dato le origini al mondo noi. Sì, capito, il cinema, la musica, grande. Bravi, ma quanta cultura nel nostro paese. Quanta cultura, in Wikipedia pure. Che soprattutto, beh, qualcuno nel nostro paese ci mette le mani, per cui c'è tanta cultura. Eh sì. Ok. Vabbè, la chat dicono qualcosa, ci interessa. In realtà dicono tanto, ma li stiamo un pochino ignorando, un pochino. E infatti, per esempio, Gianluca Ciansoci sottolinea che lui è molto legato all'Italia, non lo sapevo. Ovviamente Lobby ci ricorda che sia lui che Alex si fanno a gara per infilarsi nelle dirette a sbafo. E poi vabbè, però... insomma, stavo leggendo a ritroso e vabbè, diciamo che il grosso del tema oggi è stato comunque sia quello del virus, ma siccome ci siamo ripromessi di cercare di parlare anche di altro, io direi, non lo so, Marco, dalla finestra, che succede? Allora, in questo momento sta passando una signora con la mascherina sotto il naso, perché ovviamente l'ha messa così, e due buste piccole per la spesa. Sì, abbiamo assodato che il naso deve rimanere scoperto, ce l'hanno fatto vedere tutti i politici. Assolutamente, perché, perché il naso si allunga. No, ma perché nel politico il naso si allunga, per cui devono toglierlo, sennò per me. Io devo dire che l'ho portata a me mezza giornata, la mascherina è veramente l'inferno. Cioè, poi dopo ho resistito fino alla fine, però mi ha fatto. E non la devi toccare, tra l'altro, te la devi mettere lì, sta, non la puoi toccare, se te la sposti ti sei già spiaccicato l'eventuale virus sulla faccia. Infatti secondo me non c'ha molto senso, perché non è facile. Ma non c'ha senso, no, infatti non va portata se non sei infetto, o se non sei a strettissimo contatto con persone che potrebbero essere infette, oppure in luoghi molto stretti tipo metropolitane, come se adesso la gente potesse andare in metropolitana. Guarda Marco, il problema sta diventando però, di natura di ordine pubblico, cioè nel senso che se vai in giro in contesti dove molti ce l'hanno e tu non ce l'hai, te guardano già male. Quindi tra un po' il problema sarà avercela, non tanto perché si è convinti che sia utile indossarla, ma per indossarla, per non farsi rompere le palle, sostanzialmente. Sì, ma io non ce l'ho, te sfido a trovarle. Io non ce l'ho, non la cerco e non sono disposto a pagarla più del suo prezzo. No, bravo, vergogna. Allora, ma se io adesso vado da Alex e gli dico: Alex, un argomento a piacere, così de botto a cazzo de cane, una cosa che ti viene in me, una stronzata, così, qualcosa che vuoi dire, o ti hai risegnato, o avevi letto un articolo, o qualcosa, boh, così, via. T'ho inculato, Sì, ma veramente mi funziona così. Con la sabbia, ti voglio veramente male per questo. Oggi ho pulito il frigorifero e mi sento un campione del mondo. Va bene. Allora, parliamo di questo. Come l'hai pulito il frigorifero? Con limone o con l'aceto? Allora, ho fatto prima di tutto, ho tirato fuori tutto quello che aveva preso coscienza di sé, e di conseguenza il frigorifero adesso è diventato una sorta di portale vuoto verso un universo conosciuto. In quanto ti hanno chiamato babbo da questa cosa? No, mi chiamano Alex perché sapevano che io ero una sorta di padrone di casa, ma non ero il loro creatore. Ero arrivato a un livello di conoscenza. Sì, capivano questa cosa qua. No, uso un prodotto detergente apposta, spruzz, pull, molto. E poi ho tirato via tutti i piani, li ho lavati nel lavandino con il detersivo dei piatti. Ma l'hai anche sbrinato? Non ha bisogno di sbrinarlo, è auto cosciente che il frigorifero si è uno di quelli. L'ho comprato 2-3 anni fa quando mi sono sposato, per cui è di quelli che c'ha il ventilatore inside, non sa il cazzo. Dico che ce la sanno, insomma. Ce la sanno, sì, mai avuto un cazzo di brina, ma proprio niente, per cui quello devo dire che mantiene il secco molto. Cosa, quando è che l'hai comprato? È quando mi sono sposato, a settembre o no, forse ero già. Sì, 2016, sì. Credo che vabbè, già poi è stata a fare i conti della serva, che? No, perché sai che dopo 2 anni, cioè, la garanzia finisce. Vaffanculo, ma che secciona! T'ha castato la maledizione, comunque. Sì, ma io che l'ho castata la maledizione. Obsolescenza programmata forever. Cioè. Ma cazzo, il mio sta in piedi da oramai dal 2008. Quindi, Alex, ce l'hai un D20? Dato da 20 per vedere. Sì, ma non oso tirarlo. Meglio non tirarlo, guarda. Non tirarlo. Io con i tiri critici ho sempre avuto una sfiga. Se io faccio la conta, avrò avuto tipo il triplo di 1 rispetto a 20. Tipo Alex, quando giocava di ruolo, il suo personaggio moriva alla prima scena, praticamente. Ero abbastanza uno sfigato, effettivamente. Le storie erano bellissime. Scrivo delle storie di personaggi stratosfericamente lunghe, però poi veramente, cioè, erano dei sfigati. Solo quando a un certo punto mi sono impegnato, questo guerriero qui deve fare proprio il guerriero di merda, era diventato veramente uno che usava le spade, cioè faceva delle combo spettacolari, però per il resto era faticoso. Tanto il pubblico apprezza il fatto che Marco, essendo il distruggitore, ha fatto bene, insomma. Ma lui non è più il distruggitore, lui è il portatore di morte adesso. Che è più o meno la stessa cosa, Death anche digitale. Beh no, veramente è un po' come Gandalf quando è passato da grigio a bianco, cioè è salito di livello praticamente, quindi... Cioè la classe è la stessa, Markalf. Soltanto che il distruggitore è Markalf, sì. Solo che faccio più luce, questo è... sì, luce. Sì, col giubbotto esatto. De Fonzi, però. Col giubbotto De Fonzi, esatto. Che scena triste. Gualdi va in giro col giubbotto De Fonzi, quindi. Adesso non ce l'ha più in giro perché non si può, però. Però se, appena se avessi... tanto. Quando sarà già. Allora, io propongo una cosa a tutti quelli che ci stanno ascoltando e ci si ascolteranno magari in difterite. Un giorno, quando avremo chiara l'idea più o meno di quando posta follia finirà, facciamo un mega runtime raduno. Cioè, ma come minimo, proprio, cioè, proprio tutti insieme, poi prendiamo il microfono. Siete pronti? Capito? Una cosa proprio. Facciamo il nostro focolaio, dai. Esatto, esatto. E poi ci starnutiamo tutti addosso. Il Barcam Live 2020. Ma che bella roba. No, stavo a leggere una cosa. Si insultano in chat. Che succede? No, ah, no, no, no, forse ho capito male io. Sì, ho letto un scritte cose di gente che si insulta in chat. Vabbè, sono belle cose. Lobby, spiegaci. No, no, infatti. L'importante è che si parli, no? Infatti, infatti, anche l'insulto è un modo di comunicare, insomma. Vabbè, e invece tu, Gualdi, ce l'hai una notizia di quelle proprio che proprio che merita notizia, proprio. Ma forse vecchia, non è proprio una notizia, è una curiosità, perché stavo frugando nell'internet e ho scoperto che inizialmente è una cosa vecchia questa, ma inizialmente il finale di Breaking Bad doveva essere leggermente diverso, cioè doveva incontrare il nostro amico Heisenberg, doveva incontrare Dexter. Ma davvero? Se non è successo, no, no, vero, assolutamente. Vabbè, vero, cioè, questa cosa doveva esserci un crossover in cui lui incontrava Dexter nelle foreste dove praticamente è finito Dexter. Quindi poi ci sono detti no, però è troppo una cazzata. Si sono fermati in tempo. Sì, si sono fermati in tempo. A volte c'è un attimo di lucidità. Sì, perché veramente sarebbe stato già il finale di Dexter è una delle più grosse porcate, insomma, e forse cioè lo recuperava, però distruggevano Breaking Bad, no, pazienza. Sì, beh, certo, perché poi lui sarebbe stato costretto moralmente ad uccidere Heisenberg, quindi forse no, che può dire, ragazzi, no? Scusate, siccome voglio cercare di sdrammatizzare un dato che non si può sdrammatizzare, però su Open il titolista si è un po' sbagliato. Coronavirus, nuovo tragico bollettino della Protezione Civile, 793 morti in un giorno, ora sono oltre 4.825, solo che dopo ci ho messo un 1.000. Minchia! Porco cane! Cioè tutti i morti in Europa praticamente. Capito? Cosa ci stanno nascondendo? Esatto, esatto, cosa non ci dicono? Quindi purtroppo insomma, abbiamo quasi 5.000 nuovi contagi, quasi 5.000 morti totali. Però poverini abbiamo 943 guariti oggi. Aspetta, i poverini che sono morti sono, cioè, valgono 100.000 volte gli altri. Cioè, certo, che uno, cioè, per 100.000. Uno vale 100.000. O uno vale 1.000. No, forse uno vale 1.000. Uno vale 10. Uno vale 1. Uno vale 1. Vabbè. E niente, io invece non c'ho notizie, non ho fatto un cazzo, cioè, prima dice, fa le cose e poi dopo scarica sul no, no, ma io, infatti poi io lo chiedo a Walter, perché io oramai ho installato The Witcher 2 dopo 10 anni, quindi basta, devo giocare a The Witcher, non c'ho più niente da fare, insomma. Quindi ci scarichi così, non ho capito, cos'è che chiedi a me? No, anche tu ce l'hai la notizia, sdrubala così, una cosa da buttare così per far contenti tutti, che cazzo so, una notizia tipo il pirla del giorno oppure... Beh, il pirla del giorno te l'ho dato prima, anche se era di qualche giorno fa, però insomma possiamo fare una ravanata per i meandri del web, non lo so, vediamo se troviamo qualcosa, dai, però nel frattempo... Ma secondo me, guarda, questo è il periodo tipico dove ovviamente la gente dovente sta a casa, magari copulano anche, tipo gente al pronto soccorso... Se l'ho incassato nel culo. Che bella scena. Mamma mia, beh. No, ma io c'ho un amico mio al pronto soccorso che dice che, cioè, non vi pensate che non succedano queste cose? Sì, sì, no, beh, ne sono successe e a volte sono saltate anche agli onori delle cronache. Però magari in questo momento, anche se succede, difficilmente lo raccontano. Anche perché credo che se una coppia si incastra e chiama il 118 per essere portata al pronto soccorso adesso, secondo me dice, attaccate, no, va a cazzo, aspettate che sta moscia, già, sì, fatto, perché... già fatto, esatto, non lo so, attaccate va a cazzo, ma più di così è drammatica la questione. Vabbè, niente, dai, che ore so, dai, sono 18 e 15, Pizzi. Sasimo raccontata. Vogliamo parlare di qualche serie televisiva che abbiamo visto che non è Picard? Guarda, se volete, Alex, vi ricordo che su Netflix, come dire, a seguito della seconda stagione di Altered Carbon è uscito anche il film d'animazione in questi giorni. E quello non lo voglio vedere, anzi me lo vedo proprio stasera, mi sa. Com'è? Io stasera non lo so, no, io stasera guarderò Ultra, come lo vogliamo dire. No, la posso fare. Ma proprio non è il mio genere, non c'è niente da fare. Non capisco. Cosa non capisci? Non capisco. Il calcio. Niente, non capisco. In realtà non capisco niente, cioè, però. Ma Alex, tu consiglia una serie, insomma, quelle che non ho ancora consigliato. Esatto. Allora, fammi vedere che cosa ho visto recentemente. Allora, sto riguardando con mia moglie tutta Modern Family ed è veramente bella, cioè, ma tanto bella. Secondo me è una delle serie migliori degli ultimi 20 anni. Se ripenso a come erano le serie negli anni 90, che il metodo di paragone era Friends, come si sono evolute negli anni 2000 con questa roba qui, cioè, nel senso, grazie a Dio gli anni 90 sono finiti. Questo guardando. Poi fammi pensare un attimino se ho visto qualcosa di intrigante. No, altre cose ve l'ho già dette tutte. So che non è bello dire una serie vecchia di 12 anni, però figa, mi sto guardando questa roba qui. Io invece ho visto finalmente Michela ci teneva tantissimo a farmi della storia infinita. Io non l'ho mai visto, devo dire la verità. Il film, no. Il film non l'avevo mai visto e l'ho visto e non è quei film che tu recuperando però lo apprezzi, diciamo, però vedi che tipo, che ne so, i Goonies. Oggi i Goonies è ancora bello da vedere, cioè, nel senso, e invece La storia infinita è invecchiato proprio brutto, cioè, nel senso, è un film bruttissimo. Ma l'ho rivisto l'altro giorno con mia moglie, neanche tanto. Sì, secondo me la parte degli attori è inguardabile, cioè, nel senso, uno più cane dell'altro, ma cane. Ma pure gli effetti speciali, cioè. Ma quello che se ne fa, quello è figlio del suo tempo, cioè, nel senso, era 1985, cazzo volevi fare nel 85? Credo fosse anche una produzione tedesca, tra l'altro, quindi non era esattamente Hollywood. Sì. Però è la cosa più costosa che avevamo fatto in Germania dopo il palazzo del dopo Hitler. Esatto. No, che poi in realtà c'è il cane dragovolante che è veramente una cosa, è bruciata. Io se l'avevo visto da bambino mi avrebbe fatto paura, cioè, nel senso, cioè, perlomeno senza. No, dai. È uguale al mio cane, no? Sì, no, sì, Palf è più bello. No, non c'è. Cioè, a me che i cani non mi piacciono, Palf è più bello. Cioè, nel senso. Vabbè, ok, sì, perché. No, quello è veramente un mostruoso, brutto, fatto male. L'unico personaggio che veramente mi è piaciuto è Mordiroccia, là, quello insomma, quello orco. Quello un po' ti senti come un parente, va? Sì, è come se fosse un amico, insomma. Esatto. Per esempio, Gualdi chi sarebbe nei personaggi? Quella, l'amico del Mordiroccio. L'imperatrice cappello, bambina, Marco Gualdi. No. Scherzi. E poi tanto bambina, insomma. No, no, devo ammettere che io non l'ho rivisto di recente, La storia infinita. Sono rimasto ai flash che mi vengono in mente da ragazzino. Non sono preparato. No, io so che c'è il 2, quindi devo vedere anche il 2, assolutamente. Che il 2 credo zozzeria. Fatto direttamente in America. Vabbè, quello. Zozzeria. Però sì, sì, zozzeria. C'era zozzeria. No, peggio, che quello flash, è peggio. C'era il padre. Addirittura. C'era che faceva Flash. Sì, John Wesley Shipp. Addirittura è peggio, pensa te. No, io a me mi è rimasto impresso il cavallo che fa proprio a filo del Gianni, nel senso. Il cavallo di Atreyu, no? Esatto. Com'era Michela? Artax, stupido cavallo. Lui fa stupido cavallo e poi il cavallo muore. Bello, bello. Però poi dopo tutto torna a posto. Com'era Artax? Stupido cavallo. Stupido cavallo, sentite, quindi lei è. Ma poi ci teneva tanto a farmi vedere questo film che devo dire è invecchiato brutto. Bisogna dire un po'. Oh, ragazzi, anche parlando di serie, Gianluca Sansò ci chiede se abbiamo visto tutti Mr. Robot. Io l'ho visto, bello. Sì. Bello. Noi ancora no. Bello perché no, è la prossima cosa che voglio vedere. Mi ha detto che il finale è spettacolare, una delle migliori di sempre. Ecco, Michela sta guardando Sex Education. Con lei è Marta Scully, chi è la donna? Sex Education è bellissimo. È bellissimo. Chi è la detective Anderson? Lei è fantastica, cioè proprio è fantastica perché, ovviamente, vabbè, a grandi somme. la storia è la storia di questo ragazzo che c'ha la madre che fa la sessuologa in casa, c'ha lo studio praticamente in casa, e è fantastica, cioè lei mi fa ammazzare dalle risate, e la serie è veramente bella. Infatti mo mi sparo due puntate, addio, arrivederci. Bravo, e... vai, ma hai detto che non guardavi. Michela, informazione per te, è iniziata la 11 di Shameless. Ah, ma io l'ho un po' abbandonata Shameless perché, allora, perché non so perché. Io avevo capito a fine stagione 10 che fosse finita la serie, invece era stato fatto solo il party di addio per come si chiama l'attrice che fa la figlia maggiore? Non mi ricordo. Amy Rossum. Sì, perché è uscito il personaggio dalla serie, ma in realtà la serie sta continuando. Forse 11 stagioni sono tante. Io, continuo a vedere Anna from Green Gable. Quindi... Anna with an E. E comunque volevo dire a Alex che sì, bello Modern Family, io l'ho sempre adorato, cioè loro sono amici di famiglia per me, proprio boom boom boom, ma Friends non si tocca, eh. No, per me Friends è una di quelle cose che è invecchiata malissimissimissimi. Sì, oggi forse sì, però è vero pure che... Vabbè, però è stato il capostipite da un certo tipo di... Cioè, io... Però io ogni tanto me lo riguardo con piacere. Io non me lo sono mai visto. Vabbè, ma tu guardi... Ma tu, vabbè, che... Fate, Luisa. Ma mi è piaciuto. Cioè, non mi ha mai detto niente, cioè, vabbè, ma era ancora il format anni 90 dei sitcom, con la camera fissa, cose non con niente, tutto stereotipato, insomma. Non generazionalmente più vecchio di Modern Family, dopo tutta sta tristezza se ne potremmo pure andare, vado a vedere Sex Education. Brava, ciao ragazzi, e cucina perché ci ho fatto. Ciao, c'è una proposta per la cena, vabbè, ci sentiamo dopo, arrivederci. Mi state facendo venire. No, è perché lei aveva tutto un obiettivo, poi dopo è passata la voglia, insomma. Vabbè, dai, no, vabbè, mo vengo tanto. Vabbè, dai, ragazzi, io direi che ci potremmo stare, no? Dai, la siamo portata a casa, un'oretta e mezza l'abbiamo fatta. Poi lo dici, insomma, ci avviamo al momento dei saluti. Non so, tu che dici? Non so, hai altre cose, perché io non ho più niente da dire. Ma no, ma salutiamoci così. Infatti. Tanto ragazzi la facciamo ogni 2-3 giorni, quindi tranquilli, ce n'è più una volta a settimana. Tanto un dogazzo annate. Esatto, stiamo qui ai confini della fine del mondo a raccontarvi storie sulla fine del mondo, appunto. Quindi insomma, noi vi promettiamo che fino a quando Gualdi avrà cose da raccontarci dalla sua finestra, noi andremo avanti. Esatto. Ma io in realtà stavo preparando una scaletta, poi dopo infatti ero convinto. Poi sei inciampato. Faccio una cosa, roba, cioè, poi dopo sono stato colto da un momento di pigrizia interinale. Non so cosa dico, però così. Parola a caso. È giusto, è molto interinale la pigrizia. Bravo, bravo. La pigrizia ci interina. Bravo. Vabbè, dai, io ci so. Vabbè ragazzi, io allora saluto al volo tutti gli amici che ci hanno ascoltato in diretta. Pier G, Girasole, Carmine Puccio Console, questa volta è una console, Gianluca Sansò, Davide Gatti, ovviamente Michela De Paola, che in realtà era anche con noi in studio, saluto anche Robby Frontali, saluto anche Escorre Zio Minsky, Gianluca Sansolo già salutato, e tutti quelli che come al solito, Ulrich Anders che ci ha ascoltato e ha interagito all'inizio, non so se poi si è addormentato, ma nel caso fosse, insomma, lo capiamo, e tutti gli altri che come al solito ci hanno ascoltato silenti. E anche Albus. Bene. Io direi che martedì o mercoledì ritorniamo, tranquilli. Quando ve pare. Perché quando, tanto più o meno, insomma, no? Siamo qua. E niente, vabbè, allora, se mandi la sigla, poi dopo... Sta andando. Ok, sta andando. Ciao. Ciao. Allora facciamo senza così, salutare gli amici che hanno fatto compagnia? Ah sì, no, che ne so, tu hai detto c'è la sigla. Io pensavo che era... Sto aspettando che saluti, sì, cioè, ok, l'altro. Allora... Ringraziamo tutti, ringraziamo chiaramente Walter Sbano che oggi ha fatto anche la regia. Ciao! Ti ringrazio perché vedi che insomma abbiamo risolto problemi tecnici durante la trasmissione, perché se la facevo io oggi praticamente non sentivate in cazzo, cioè era quella la cosa bella, ma forse avrebbe anche salvato. Salutiamo anche Marco Gualdi. Ciao, io non ho mai visto Friends. No. E continua a farlo. Continua a farlo. Esatto. E salutiamo anche il compagneros, anche detto Platinum Man, Alex Racuglia. Sì, grazie mille di essermi venuti qua. Grazie, ciao. No, di essermi venuti qua e lasciamo stare. È tutto un programma. Esatto. Quindi aiuto, ci vediamo sì. Martedì prossimo, quindi fra due giorni circa. E con la fiera del Bukake. No. Esatto, che c'ho, stavolta la preparo veramente la scaletta. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.